Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. Che vuol dire ciascuno libero? Renderà ciascuno libero? Che una parte del partito potrebbe andar via? Certo. Perché un grande partito che viene da ripetute gravi sconfitte, abbiamo perso Roma, Torino, il referendum, e poi da sconfitte politiche. Lei dice di tutto questo dovremmo discutere in un congresso. Certo, poi, a questo punto bisogna discutere in un congresso. Se uno pretende di non discutere e di andare alle elezioni facendo finta di nulla, diciamo. Ci sarà una scissione, quindi secondo lei per la prima volta si parla apertamente di scissione dentro il Partito Democratico? Questo caso sarà Renzi che farà la scissione, se non voi vorrà il congresso, se ne va. Diciamo. Non promuovo, non sono candidato, qualcuno ogni tanto dice che devo andare in pensione, ma io sono in pensione, vorrei sottolinearlo, ho informazione, diciamo, lo sono da prima che venisse Renzi. È il momento di D'Alema, signori. Aprite il frigorifero, esce D'Alema. Aprite il forno a microonde al mattino, esce D'Alema. D'Alema che lancia la scissione. D'Alema consenso. Circo equestre. No, presidente, non iniziamo, dai, Vincenzino. Deboluccia. Che dobbiamo fare? D'Alema che punta al 10%. C'è un sondaggio che dice, lo scrive il giornale, sarebbe al 14% la sinistra non renziana all'interno del PD. Partono subito le accuse, vuole un posto in Parlamento. D'Alema dice no, io sono in pensione, tutto si muove nel PD. In tutto, signori, forse la frase di politica più interessante è legata a Berlusconi, così racconta almeno Repubblica. Berlusconi ha visto la manifestazione sovranista di domenica a Roma. Salvini, Meloni, Brunetta, quattro gatti neri. Così l'avrebbe definita Berlusconi. Sono quattro gatti neri. Senza di me dove vanno? Così a 81 anni, proprio abbarbicata. Ah, il graffio del Berlusca. Allora, signori, questa è la politica italiana, mentre nel mondo ovviamente tutti guardano a quello che sta facendo Trump. Ma la notizia ferale del giorno io l'ho trovata sul Giorno, per l'appunto. Signori, vorrei convocare subito i miei due ospiti, i miei due colleghi, scrittori. Flavia Perina, buongiorno, devo dare una ferale notizia. Buongiorno, devo dare una notizia ferale. Flavia Perina. Intanto saluto anche Alessandro Robecchi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato, interista da strapazzo. Va bene, la notizia ferale è questa. È morto a 91 anni Masaya Nakamura in Giappone. 91 anni è un'età molto giovane per un giapponese, l'ha mangiato un fantasmino. Masaya Nakamura, bravo, inventore del Pac-Man, il videogioco. È stato il fantasmino rosso, quel bastardo con cui siamo cresciuti tutti. Flavia Perina, quanto hai giocato a Pac-Man? Ma molto poco, le femmine non giocavano tanto a Pac-Man, quindi mi spiace, che devo fare? Mica vi posso raccontare una bugia, però ricordo code infinite di fronte alle macchinette dei Pac-Man, e poi quando i primissimi computer era una specie di ossessione. Quando le partite nei bar, caro Robecchi, certo, duravano 12 secondi, mettevi la tua monetina da 200 lire. Se eri bravo duravano tanto. Certo, se eri bravo, ma all'inizio bisognava investire, fare grandi investimenti di paghette. Erano delle vere videogiochi, quelli tipo slot. Eccolo qua, Pac-Man. Pac-Man, Robecchi, quanto hai consumato quel clone? Sì, tanto. Prima dell'avvento di Tetris, molto. Sì. Poi arrivò Tetris, nulla fantastico come prima. Anche Space Invaders non era male, no? Anche sì, ma adesso quello era del 21, Milan. Del 21? No, del 21. Si giocavano al congresso di Livorno. Questa era prima di Pac-Man, Space Invaders. Vabbè. Allora, siamo qui con i nostri due amici giornalisti e scrittori. Apriamo il Parlamento. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete al Parlamento. Allora, intanto devo dire che il buon Robecchi me ne ha combinata una, perché mi è arrivato il tuo ultimo libro. Adesso io sto leggendo un libro di John Grisham e dovrei abbandonarlo. Posso finirlo prima di leggere il tuo? Ma no, finiscilo pure, ti do cinque giorni per finire. Ce l'ho qua, dai, Torto Marcio, no, mi piace molto perché è la seconda puntata, diciamo così, del buon Carlo Monterossi, va bene? Continua. Ambientato nel... Adesso andrò subito a vedere se l'hai ambientato anche in qualche via dove vivo io, dove... Leggilo con Google Map. Tu la metti in queste vie di Milano, ogni tanto una volta ho trovato via Venini, ho detto porcaccia miseria, guarda qui via Venini, e va bene. Perché io so delle cose di via Venini che tu non sai. Devi svelare qualcosa. Va bene, insomma, invece è un'altra grande scrittrice, anche Le Lupe della Perina. Oggi abbiamo scritti, come va il libro? D'apposto. Il libro va molto bene e sto pensando di scriverne un altro, però mi piace tantissimo questo titolo, Torto Marcio, è un titolo bellissimo. Torto Marcio, sì. A chi lo attribuiresti adesso in politica, Torto Marcio? Praticamente diciamo un po' a tutti, diciamo, ecco. Può essere un'etichetta che può essere applicata tranquillamente. Così gliela mettiamo tantissimi congressi, in fronte come la lettera scarlatta, la frase scarlatta gliela mettiamo. Allora, da dove volete iniziare? Allora, tu Robecchi, che non ami gli uomini forti, tu sei uno smidollato interista, cioè qua c'abbiamo uno che tra l'altro Trump, sta facendo quello che ha detto che avrebbe fatto, cioè non è che si è svegliato e si è ammattito, quelle cose lì le ha dette, no? Sì, l'ha votato. Non mi sembra un attenuante, diciamo. Anch'io se dico adesso esco, ho finito con Milan, vado a rapinare una banca, e poi lo faccio, non è che tutti mi dicono bravo, ha mantenuto la parola. No, infatti, però voglio dire, è stato votato su quel programma lì, non è che... Sì, credo che ho visto anche molte di queste proteste, cortei, giustamente, sono molto contento che l'America, insomma, si svegli, spero che questa cosa crei un risveglio, diciamo così, etico, morale, politico negli Stati Uniti, però sembra che il dato di fatto di queste elezioni sia che mai come in questo momento esistono due Americhe, noi parliamo sempre delle due Italie, il nord, il sud, eccetera, eccetera. Credo che i contadini dell'Iowa e gli abitanti di Manhattan siano questa due Americhe volta veramente diverse, lontani mille miglia. Beh, ma si è sempre detto, insomma, l'America c'è New York, dall'altra parte Los Angeles, giusto per semplificare, sì, sì, e in mezzo c'è un'altra America, mille altre Americhe, ma voglio dire... Sì, si è sempre detto, e questa volta si vede in un modo palmare, diciamo. Anche perché adesso sono anche, Flavia, sono anche proprio quelli, i californiani, quelli della Silicon Valley che vogliono immigrare. Ma io non penso tanto a questa cosa delle due Americhe. Io penso che ci sia proprio quel problema del proverbio, quello tra il dire e il fare, no? Allora tu dici delle cose che in campagna elettorale magari funzionano, no? Poi dopo, quando le fai, di fronte alla realizzazione pratica di certe cose, le persone si rendono conto che erano una grandissima stupidata, spesso controproducente. Noi immaginiamo se alcune delle ricette contro l'immigrazione dette in Italia, dette che hanno anche provocato consenso, fossero state applicate. Cioè, quando si diceva affondiamo i barconi, poi sì, a un certo punto arrivava una motovedetta, sparava su un barcone, lo affondava, morivano donne e bambini, non è che gli italiani avrebbero, insomma, penso, reagito grosso modo quasi nello stesso modo, anche perché appunto non è che sono promesse quelle, sono stupidate, sì, sono stupidaggini, che finché le dici magari puoi dire ah sì sì, buona idea, poi quando le vedi realizzate ti rendi conto. Ad alcune persone serve di vederle forse realizzate per rendersi conto di quanto siano proprio controproducenti. Ma che effetto ti fa, Flavia, vedere per esempio anche Giorgia Meloni, Salvini, che dicono sì a Trump? Sono l'area politica a cui tu guardi anche con attenzione. No, quelli che Berlusconi ha definito quattro gatti neri, questo... Sì, vabbè, Berlusconi, questo è il momento dei grandissimi pensionati, D'Alema, Berlusconi, ecco, eccetera, e capisco che possano anche un po' così divertirsi con le definizioni. Penso che loro abbiano lo stesso problema, sono stati al governo, la Lega è stata al governo, no? Sì. E ha detto le ronde, ad esempio, e le ronde hanno risolto mai un problema, le hanno fatte passare con una legge, hanno fatto una legge che istituiva le ronde. Non è che è cambiato niente, però quando lo dicevano sembrava una cosa molto suggestiva. Il reato di immigrazione clandestina. Il reato di immigrazione clandestina è quello che intrappola in Italia degli stranieri che noi potremmo espellere e che invece non li possiamo espellere perché devono aspettare il processo. Sì. Quindi insomma, bisogna stare un po' attenti con queste promesse, perché ci sono delle promesse che suonano tanto bene quando le dici, poi quando le fai è difficile. Invece, però Robecchio, io vorrei capire, veramente non suonano bene nemmeno quando le dici. Per qualcuno sì, a qualcuno gli piacevano queste cose, sì, no? certo, ma è quel qualcuno che adesso anche un po' per quel provincialismo insopportabile che ci portiamo dietro sostiene Trump, gente che fino a giovedì scorso sosteneva Putin sulla Piazza Rossa, quindi insomma non darei grande peso, quell'oscillazione Stockholm più forte che comanda, che caratterizza un po' da sempre. Vabbè, ma tu che risveglio morale ti aspetteresti? Perché l'hai visto anche, tra l'altro, i dati Obama, e questo sono dati di fatto, ha fatto più espulsioni di Bush, per dire. Altri tempi, diciamo che Bush è andato a ammazzare 1 milione di civili in Iraq, quindi lui personalmente, come dire, quindi ci starei attento. No, ma io penso sempre, poi al netto fai la tara con il romanticismo e tutto quello che vuoi, che l'America è anche il paese che fece il New Deal, che fece quel colpo di reni per tirarsi fuori dalla crisi, e che è un paese che è stato veramente costruito dagli immigrati. Sì. E quindi come vedi oggi, infatti, quelli che protestano molto forte sono quelli che hanno le aziende nella Silicon Valley, perché i ricercatori sono quasi tutti stranieri, perché molti lavoratori della conoscenza sono stranieri. Se tu mi fermi alla frontiera, uno che sta andando a ritirare l'Oscar oppure alcuni tra i più grandi ricercatori scientifici del mondo, sei un matto, sì, non so come dire. Cioè, io credo che per la prima volta gli Stati Uniti abbiano un presidente antipatriottico, e questo per gli Stati Uniti mi sembra veramente di una gravità. Ecco, io credo che se ci fosse in giro un Lee Oswald, la CIA lo assumerebbe subito. Ah, dici? Però. Sì, perché credo che assassino di Kennedy, giusto per ricordare. Che questa cosa di rispetto alle promesse elettorali fa se portata avanti farà dei grossi danni agli Stati Uniti. Però questo è il grande tema, anche capire cosa farà l'Europa. Mentre noi abbiamo D'Alema, abbiamo Renzi, abbiamo Emiliano, ma anche Emiliano, senti qua Emiliano, Emiliano. Siccome questa posizione è insostenibile, si può persino arrivare alle carte bollate per obbligarlo a fare il congresso, io consiglio vivamente al segretario di iniziare immediatamente la procedura per il congresso. Ragazzi, perché se non lo fa, anche in Emiliano, una difficoltà politica, anche Emiliano, che fino a un mese fa, io ricordo, lo intervistavamo, forse domani l'abbiamo anche ospite, lo intervistavamo, cara Flavia, diceva no, ma con Renzi, ma che è successo? Dopo il referendum, ragazzi, che si stavano amici per finta, adesso lo incontra per strada. Ma che è la politica, bellezza. C'è un piccolo dettaglio. In politica le sconfitte pesano. Certo che pesano. Cioè, non è che tu puoi perdere 4-0 e il giorno dopo presentarti e dire che non è successo niente. No, certo, mica puoi fare come l'Inter, questo è vero. Quanto, cioè, non è esatto, che, quanto alla scissione sì, di cui si parla da anni, eccetera, eccetera, ricordo che tra i 3 e i 5 milioni di elettori del PD si sono già scissi. Sì, si sono già scissi. Ecco. No, però io vorrei capire questa cosa, però ve lo chiedo dopo il traffico. Che succede a D'Alema? Anche perché abbiamo rispolverato una dichiarazione mitica di D'Alema da cui ripartiremo per capire come mai. Cioè, e la dichiarazione in pratica riguardava il futuro di D'Alema dopo il referendum. Aveva detto delle cose precise che vogliamo sentire tra poco. Ma ce le abbiamo queste dichiarazioni di D'Alema nel caso? Le vogliamo anticipare? Sentiamo cosa ha detto D'Alema qualche tempo fa. Io, finito il referendum, tornerò pienamente al mio lavoro. Cioè, e diceva le cose di Bruxelles, le cose, tornerò al mio lavoro, va bene, il traffico. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Ma no, è del muro di Trump, ma che ce frega, ma manco ci tocca, cioè non ho capito qual è il problema, perché dobbiamo discutere del muro di Trump, è inutile, è giusto o non è giusto, ma chi se ne frega? La dichiarazione di Alfano sull'umanità dimostrata, eccetera, eccetera, ti fa sospettare qualcosa, qualche accordo strano del governo con i terroristi islamici? E che novità? La politica italiana è sempre quella. Da Obama a Trump, dal Nobel all'ignobel. L'unico politico al mondo che mantiene le promesse è Trump. Ma guarda che... Noi almeno siamo abituati con i nostri politici che sparano minchiate, le promettono, poi non le mantengono. Invece lui le dice e le fa, capisci? Si capisce il valore del non mantenerlo. Ma capito, ma meno male che siamo in Italia. Infatti. Vabbè, poi bisognerebbe discutere un bel giorno anche del premio Nobel per la pace a Barack Obama, eh? Vabbè. In tutto questo, caro Robecchi, mi scrivono Pac-Man 78, Space Invaders del 77. Quindi non è che non fare quel congresso di Livorno, il 21. Un anno prima. Sulle date della propria educazione sentimentale, ognuno ha la sua idea. Sì, va bene. Comunque, Flavia Perina, c'è D'Alema, com'è che l'hai chiamato il pensionato? Sai che danno il 10, il 14%, tanto ormai... Ma diamo le percentuali a tutti. Ma quello è ovvio, quello, cioè, l'area di rifondazione ha sempre preso fra il 6 e l'8, dopo questo sfracello successo a sinistra. Ma adesso c'è Pisapia. Ma è l'effetto collaterale del proporzionale, c'è una legge proporzionale, è la prateria dei piccoli partiti, no? Noi ce lo siamo dimenticato, ma... col proporzionale anche partiti del 2% contavano, facevano i ministri, e perché uno non ci dovrebbe provare? Mica come adesso con Alfano. Alfano quanto i vale? I partiti col 2% c'hanno i ministri. Alfano, sì, per me è il mistero della politica, il 2%, 2,5%, 2-3%, per ministro del giustizia, ministro dell'interno, ministro degli esteri, ministro... Vabbè, ma D'Alema dove va? Cosa fa? non doveva. D'Alema se non gli danno modo di, non gli danno modo con un congresso di buttare giù dalla Torre Renzi, altrimenti secondo me probabilmente farà una lista e metterà insieme gli scissionisti del PD. È un partito che ne ha avuto 2000 di scissioni, sarà una in più, e se ne andrà alle elezioni a vedere quanto conta. Dopodiché, comunque vada, anche se prende il 2%, il progetto di Renzi di arrivare al 40% il premio di maggioranza è finito. Quindi, Ma quello non ce l'ha nessuno. Cioè, se si va a votare adesso con questa legge elettorale, nessuno prende il 40%. Nessuno ha questa idea, no? Che mette tutti insieme in un listone. Ma ho capito. Ma anche oggi anche Brunetta fa un'intervista sul Corriere della Sera, ma è spassosissimo. A un certo punto fa ordina Tommaso Labate, prenda carta e penna e li scriva tutti e tira dentro una serie di nomi, guardate, eccoli, chissà perché non me la sono messa da parte. Capisco l'analisi di Perina, che è anche corretta e giusta, ovviamente, ma non si tratta solo di buttare giù Renzi dalla torre, che sembra un gioco. Chi governa poi? Si tratta di avere il più grande partito del paese, diciamo centrale nella politica del paese, con un leader con cui si perde. Cioè, si perdono le amministrative, si perdono le regioni, si perdono le città e si perde il referendum. Facendosi molto male, cadendo dall'alto, diciamo. Quindi il problema non è tanto Renzi sta simpatico, sta antipatico, eccetera eccetera. Il problema è avere un leader di partito che perde, un perdente a capo del partito. Senti qui invece Vincenti, eccoli qua, segni tutti, li scriva tutti: la Lega, Fratelli d'Italia Meloni, Conservatori e Riformisti di Fitto, i Popolari di Mario Mauro, Idea di Quagliariello, l'UDC di Cesa, il Partito di Rotondi, i Repubblicani di Nucara, la destra di Storace Alemanno, i liberali di De Luca, le forze del civismo di Brugnaro e di Piazza, Venezia e Trieste, e via, e siamo al 40%. E i socialdemocratici se l'ha dimenticati. Chi? No, i socialdemocratici, Cariglia non lo ammettono nell'evento. Chi? Cariglia, grande Cariglia. Ma come ti viene in mente? Cariglia. E questo è un anno prima di Pac-Man. Tra Space Invaders e Pac-Man c'era Cariglia. E dice che così la Ghisleri, quella dei sondaggi, l'ha chiamato, gli ha detto che sono già al 34% se si uniscono tutti questi. Vabbè, allora è facile, no? C'è problema. Certo, poi Berlusconi dall'altra parte dice quattro gatti neri, quindi si mettessero d'accordo, per cui non si capisce da che parte. C'è gran confusione, Robecchi. Sì, c'è gran confusione. Posso ricordare un dettaglio piccolo? Sì. Che le grandi riforme che ci hanno cambiato la vita, ne cito una per tutte, il Servizio Sanitario Nazionale che il mondo ci invidia, fu fatto con il proporzionale secco, senza nemmeno premi di maggioranza, e il bicameralismo perfetto. Quindi quello che voglio dire io è che se non sono capace, cioè che non è il maggioritario che garantisce che si facciano poi delle riforme. Sei berlusconiano che vuole il proporzionale. Sei berlusconiano. No, io lo voglio da sempre. Guarda, persino nel 91, quando si votò per il maggioritario, io votai in contro. Vedi, nel 92, cioè 2 anni prima di Berlusconi e 10 dopo Pac-Man. Tu eri già per il proporzionale. E 30 prima di Renzi. E 30 prima di Renzi, eri per il proporzionale. E va bene, c'è gran confusione, chissà che succederà. Sentiamo anche la Meloni, Italia sovrana, i sovranisti. Poi cosa vuol dire i sovranisti? Da quando è nata questa cosa, i sovranisti? Ma un mistero. Allora, a me piace pensare che Italia sovrana possa essere proprio la proposta politica con la quale tutti insieme ci candidiamo alla guida del governo italiano. Eccola lì. Sovranisti, cosa è una parola strana, soprattutto perché i sovranisti italiani sono gli unici sovranisti che applaudono molto i sovrani degli altri, cioè Trump e Putin. Sì. E questo, insomma, in qualche modo non torna. Poi non si capisce in che cosa si dovrebbe esplicitare questo sovranismo. L'Italia è tutto, è, oggi è un paese sovrano, può prendere le decisioni sue, risulta sovrano, non risulta che sia, diciamo, condizionato da potenze straniere, almeno insomma nelle cose dell'ordinaria amministrazione, forse nella politica estera, nelle grandi cose. Quindi l'ho capita non male, però, suona bene, sono sovranisti, suona bene. Infatti è bello, anch'io oggi vado, oggi vado domani a casa propria, vado dal macellaio e mi do del sovranista, insomma. Entro così e dico: buongiorno, sono un sovranista. Essendo sovrano, mi dà per piacere 4 etti di vitella. Esatto, sono sovrano qui a casa sua, vorrei due nodini di vitella. Che poi è una cosa che facilita molto a non mantenere le promesse dopo, perché fai promesse talmente fumose, dici sovranista che non vuoi mica, mica come Trump. Vabbè, allora però ripristiniamo in chiusura il premio lanciato dal mitico Giachetti, eccolo. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Allora, i nostri ospiti sono autorizzati a dare il premio Giachetti a chi vogliono. Cominciamo da Flavia Perina. No, dovrai avvertirmi prima, io ci devo riflettere, è un premio importante. Guarda, questo, tutti quando bisogna dare il premio Giachetti. All'improvviso posso dare un premio a dallo uno rilevante di così. Di così grande rilievo. Ma dallo a uno in Kenya, così non ci querelerà mai. No, ma non li conosco questi in Kenya. Perina si astiene. Robecchi. No, io lo darei a quei simpatici esponenti del PD che hanno, virgolette, brindato a champagne dopo la sentenza della Consulta dicendo che aveva promosso di fatto l'Italia. Mi associo, ha ragione. È diventato Dalemiano. Come dopo un frontale con un tiro, uno scende, dice: ah, due graffietti. Berlusconiano e dalemiano. E interista. Tutte le ha, Alessandro Robecchi. Va bene, dai. No, vi devo salutare con Pac-Man. Ricordate, è morto l'inventore di Pac-Man. Notizia ferale del giorno. Saluto Flavia Perina. Saluto Alessandro Robecchi. Alla prossima. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo, quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, eccoci qui, sono le 7:18 minuti in punto, ben trovati, ben svegliati, ben in movimento se siete già verso i posti di lavoro. Allora, cari amici, volete vincere anche oggi i biglietti per venire a vedere Platone? Ormai anticipi le cose, Peter Bescapè, mamma mia. I biglietti per Platone domenica... Al teatro Manzoni di Milano. Ieri hanno vinto Giampaolo dalla provincia di Pavia e Massimo da Varese. Due coppie di biglietti vi portiamo in quattro a teatro. Allora, la notizia era l'undicenne che era stato buttato fuori da scuola perché si è portato il panino, e quindi Giampaolo ci ha proposto come titolo Immensa ingiustizia, mentre Massimo da Varese Mensa fuori porta. Va bene, tra poco vi darò un altro titolo e voi ci dovrete fare un'altra notizia, vi darò. E voi ci dovete fare un bel titolo che ci diverta. E così noi vi regaleremo anche oggi due biglietti a due persone, o meglio, no, quattro biglietti. Quanti ne regaliamo oggi? Quattro biglietti. Insomma, due, una coppia di biglietti a due persone. Dai, ci siamo. Insomma, mi sono un po' ingamberato, ma iniziamo la lettura dei giornali, poi ci capiremo più avanti, eh. Alino, il primo del bosciato sei tu! Questo si sa, martedì 31 gennaio, anche gennaio se ne va. Anche i giorni della merla sono finiti. Il Sole 24 Ore apre sulle borse in calo, tonfo di Milano, lo spread sfiora quota 190, questo è il titolo di prima pagina. Così per il Corriere della Sera, tensione su spread e borsa, questo dunque è il titolo dedicato alla giornata finanziaria. Trump ancora tiene banco, Repubblica, l'America si ribella a Trump, Obama in pericolo i nostri valori. Mentre Canada, terrore nella moschea, questa è l'apertura della Stampa. La Verità invece, tutte le balle che ci raccontano su Trump. Veniamo poi alle questioni italiane. Ecco cosa succede se si vota oggi, questo è il titolo del giornale.